ricordi. A volte lasciano un sorriso, a volte lasciano lacrime. Ci sono cose che vuoi ricordare, altre che non riesci proprio a dimenticare. A quanto pare dai ricordi non si può scappare. Mentre giri una bomba inizia a sperare di riuscirli a bruciare. Ma questo non accade veramente, perché i ricordi restano nella mente. Qualcosa che tu provi ma che nessuno sente. Quindi è inutile dare spiegazioni alla gente. È stato quel che è stato, ora voglio pensare solo al presente. Tu puoi pensare che io sono il migliore, ma quando spegni la traccia non ho più valore. Non riesco a dire bugie poiché sono un pessimo attore, il cuore infetto dal rancore per certe persone. Giudicate la mia vita, il mio modo di fare, i miei ragionamenti, il mio modo di pensare. Cerco di non essere banale, di non imitare, perché sono chi sono e questo che mi rende originale. Sono ricordi che restano dentro di te, non se ne andranno mai, e questo tu lo sai. Sono ricordi riempiranno queste pagine, a volte lasciano un sorriso, a volte lasciano in lacrime. Ci guardate da lontano, dite che siamo solo degli illusi, ma anche voi cercate spiegazioni, allora siamo tutti un po' confusi. Forse è la vita che ci ha delusi, continuiamo il nostro tragitto, mento dritto, testa alta e pugni chiusi. Quante notti passate davanti alla mia scrivania, ripensarti accanto a me sarebbe solo una follia. Le vostre non sono domande ma veri interrogatori, commentate da internet e vi credete tutti professori. Mi ricordo i primi pezzi che facevo ascoltare, registrati alla meglio, ma si sentiva male ancora. Ancora peggio dalle casse del cellulare, ma ancora troppo da scrivere, troppo da raccontare. Tu mi vorresti già fermare, vuoi voltare pagina, ripeti a te stesso il caso che ci riprovi. Sai cosa lasci ma non sai cosa trovi. Tutti i sogni che inseguivo, niente di ciò che scrivo. Non morirò perché malato ma perché sono vivo. Sono ricordi che restano dentro di te, non se ne andranno mai, e questo tu lo sai. Sono ricordi che riempiranno queste pagine, a volte lasciano un sorriso, a volte lasciano in lacrime. Sono ricordi che restano dentro di te, non se ne andranno mai, e questo tu lo sai. Sono ricordi che riempiranno queste pagine, a volte lasciano un sorriso, a volte lasciano in lacrime. Sono ricordi che restano dentro di te, non se ne andranno mai, e questo tu lo sai. Sono ricordi che riempiranno queste pagine, a volte lasciano un sorriso, a volte lasciano in lacrime.